L'allarme della Corte dei Conti, l'evasione dell'IVA supera il 36%, fra le più alte d'Europa, e corruzione e malaffare sono ancora molto forti in Italia. Lavoro, il sindacato sa che al di là dell'ascolto, dice la Fornero, c'è la ferma decisione del governo di fare una riforma vera. Marce Gaglia, gli incontri sono partiti con il piede giusto. Cocaina e marijuana in macchina, arrestato un insegnante di Castel Fiorentino, e carabinieri, era arrivata una telefonata anonima, spaccia droga agli studenti. Ascolti in calo per il Festival di Sanremo nonostante il tatuaggio di Belen. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Ripartiamo dall'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti. In diretta con noi da Roma, Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Corruzione, malaffare, illegalità e un forte tasso di evasione fiscale sono parole dure quelle del Presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino, che lancia un forte allarme su fenomeni che, dice, sono ancora notevolmente presenti nel nostro Paese, con dimensioni di gran lunga superiori a quelle che spesso vengono faticosamente alla luce. La magistratura contabile punta il dito anche contro una gestione delle risorse pubbliche inadeguata, perché inefficace, inefficiente, diseconomica, contro enti pubblici che a volte prendono la forma di usci vuoti strumentalizzati per una gestione deresponsabilizzata, contro incarichi e consulenze che spesso nascondono obiettivi personalistici estranei all'interesse pubblico. Altra piaga del Paese è l'evasione fiscale, quella sull'IVA è in Italia al 36%, la più alta d'Europa dopo la Spagna, dove si arriva al 39%, anche il recupero della fedeltà fiscale è più lento che nel resto d'Europa. Infine, tracciando un bilancio dell'anno passato, Giampaolino osserva come il 2011 sarà ricordato nella storia della finanza pubblica italiana per la severità della situazione economica, ma anche per l'affanno con il quale i governi hanno rincorso i rimedi necessari a fronteggiarla. E da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. E ancora la riforma del mercato del lavoro ad animare il dibattito politico. Ci aggiorna in diretta Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Tempi certi per la riforma del mercato del lavoro. Quanto ai contenuti, il percorso è ancora lungo. Questo è il bilancio che si può fare ad oggi sul confronto tra governo e parti sociali. Sono fiduciosa, stiamo lavorando bene, ha ribadito il ministro del welfare Fornero, che ha quindi fatto capire metteremo a punto la riforma entro marzo. L'apprendistato, ha detto ancora il ministro, è un'importante scommessa per il governo e dovrà rappresentare una vera occasione di formazione per i giovani e non prevalentemente uno strumento di flessibilità in entrata. Il governo sta lavorando nella giusta direzione e commenta intanto il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Sentiamo. Adesso è importante continuare a ridurre la spesa pubblica, non in contagi lineari ma dove ci sono degli sprechi, privatizzare, fare bene questa riforma del mercato del lavoro, che secondo noi è molto importante, deve riguardare flessibilità in entrata, ammortizzatori e flessibilità in uscita. Quindi fino ad oggi mi pare di poter dire che siamo nella direzione giusta. Flessibilità in entrata e flessibilità in uscita, nelle parole del leader degli industriali, chiaro il riferimento anche all'articolo 18. Per noi è un tema che non c'è, ribadisce però dalla CGIL la Camusso. Dal governo ricordano la flessibilità in uscita è l'ultimo argomento che affronteremo. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. E l'assemblea dei lavoratori dello stabilimento Fincantieri di Genova, Sestri Ponente, ha detto sì all'unanimità all'accordo raggiunto ieri sera fra azienda e sindacati. Si può parlare di una battaglia vinta? Roberta Pellegatta lo ha chiesto a Tiziano Roncone, segretario generale della FIM CISL. Beh, si può parlare che il cantiere ha un suo ruolo all'interno di Fincantieri, seppur ovviamente con i problemi che sono legati agli esuberi e alle eccedenze, però come dire non è un cantiere chiuso, ma un cantiere che ha una positiva. Quello che è. Quindi arriveranno nuove commesse? Beh sì, in quell'accordo è previsto l'acquisizione di una chiatta, non vi sono molte ore di lavoro, però si dà un po' di ossigeno a quel cantiere. Adesso quanti sono gli esuberi? Sono 60 le persone, che sono sostanzialmente il doppio di chi potrebbe essere accompagnato con il vecchio sistema alla pensione, che è quello che è stato fatto in tutti i cantieri, negli accordi, perché si dà lo spazio anche a qualche volontario che è. Gli altri sono eccedenze, come dire, se verrà lavoro e che in questo progetto avrà un ruolo, bene, altrimenti sarà un problema, non solo per il 3.30, anche per gli altri, quindi non è la migliore soluzione, ma la migliore soluzione in questo momento. L'area euro dovrebbe registrare una ripresa economica molto graduale nel corso dell'anno. La previsione della BCE è contenuta nel bollettino mensile. Gli economisti della Banca Centrale Europea hanno tagliato la stima sulla crescita dell'Eurozona nel 2012, portandola a meno 0,1% da più 0,8%. Ed ora sentiamo come vanno questa mattina i mercati nel giorno della decisione di Moody's di rivedere il rating di 114 banche europee. In diretta, Deborah Rosciani. Sì, siamo in diretta dalla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo. Ancora buongiorno a tutti. Da Deborah Rosciani, c'è un netto calo questa mattina per le borse del vecchio continente. Un calo particolarmente forte per Piazza Affari, che segna sul FTSE MIB meno 1,80%. Colpisce naturalmente la decisione di Moody's, e anche se da qualche tempo eravamo abituati ad un impatto praticamente nullo delle decisioni delle agenzie di rating, questa mattina invece l'intervento di Moody's si fa sentire. Colpisce 24 banche italiane, colpisce anche Eni, colpisce anche Finmeccanica. E tutto questo porta ai titoli del settore bancario, ma non solo, a scendere molto stamani. Il peggior titolo è Enel, che segna meno 5%, Mediobanca meno 4, Unicredit meno 3, meno 3 punti anche per Fiat, per la Popolare di Milano meno 2,82% per Finmeccanica. Prysmian, che invece porta a caso un'importante commessa con la Gran Bretagna, segna un rialzo di un punto. Montepaschi, perché la Fondazione Montepaschi cederà il 15% del controllo, segna anche oggi un rialzo dello 0,8%. Stamattina aveva preoccupato un po' di più lo spread, il differenziale di rendimento fra titoli italiani e titoli tedeschi sulla scadenza decennale era ripartito a razzo, toccando i 408 punti base, per scendere adesso di nuovo a 393. Euro su dollaro a 1,2991 dalla BIT. È tutto. Grazie a Deborah Rosciani. Ore decisive per il destino del presidente ungherese Schmidt, accusato di plagio e considerato un fedelissimo di Viktor Orban. Ci racconta tutto qui in diretta con noi Gigi Donelli. Sì, buongiorno. Il ruolo del presidente Schmidt è significativo soprattutto perché è visto nel contesto della costruzione, dell'edificazione del progetto politico di Orban. Schmidt è un fedelissimo, ex campione dello sport, diventa presidente della Repubblica su decisione di Viktor Orban, fino all'esplosione dello scandalo, appunto un paio di mesi fa, e ormai sembriamo davvero arrivati al dunque. Sembrerebbe dunque che Orban sia pronto a scaricarlo, cioè a rinunciare al sostegno che gli ha assicurato. La cosa in sé non è tanto da un punto di vista importante, da un punto di vista istituzionale, ma fa parte di tutta una serie di segnali dell'Ungheria, che come sapete è sotto pressione per una gravissima crisi economica e per una forte pressione da parte dell'Europa. Ecco, e poi c'è la manifestazione dei dipendenti della Malev a Budapest, la compagnia di bandiera messa a terra dai debiti, come sappiamo. Assolutamente. Si tratta per un prestito a tutto campo, nel senso che la Malev si è rivolta, e se lo aveva già fatto in passato, dalla Cina alla Russia, ma nello stesso tempo si è scatenata una vera e propria battaglia tra low cost company, in particolare tra l'irlandese Ryanair e Wizz Air, che è una compagnia dell'Europa orientale con un forte capitale polacco. Effettivamente questo è uno dei paradossi dell'attuale crisi ungherese: si chiude la compagnia di bandiera, ma nello stesso tempo Budapest rimane uno scalo molto ambito, una vicenda che non possiamo non ricordarlo, ricorda molto quella dell'Alitalia. Assolutamente, grazie a Gigi Donelli. E noi invece veniamo alla cronaca italiana. Una donna di 33 anni a Torino, ospite di una comunità per persone in difficoltà, si è uccisa con la figlia di 3 anni gettandosi dal terzo piano della struttura. Anche la bimba ha perso la vita. E ad Ostia invece, in provincia di Roma, una donna con il figlio e altri 2 bambini sono stati investiti questa mattina mentre attraversavano sulle strisce pedonali per andare a scuola. Un bambino ha riportato la frattura ad una gamba, ricoverata anche la donna. Ad investirle una donna rumena che si è fermata a prestare soccorso. E un insegnante di Castel Fiorentino è stato arrestato davanti a scuola. Il sospetto è che volesse spacciare droga proprio fra i banchi. Nell'auto dell'uomo, 42 anni, c'erano 5 grammi di cocaina già divisi in confezioni da 1 grammo e 45 grammi di marijuana. I militari erano stati allertati con una telefonata anonima. Nei giorni del maltempo la vendita di frutta e verdura è diminuita del 5%, insomma neve e gelo hanno provocato un cambiamento delle abitudini nella spesa nel 65% degli italiani. E quanto sostiene la Coldiretti, che passato il peggio ha fatto la conta dei danni dell'ondata eccezionale appunto di maltempo che ha investito il nostro paese. Sentiamo il presidente di Coldiretti, Sergio Marini. Noi abbiamo calcolato, perché questa è già più di una stima, circa 300 milioni di euro per il settore agricolo. Le regioni più interessate sono naturalmente quelle dell'Italia centrale, Lazio, Marche, Emilia-Romagna, Abruzzo, anche la Sardegna. Chiaramente alcuni danni non sono al momento quantificabili, soprattutto quelli per quanto riguarda le coltivazioni arboree, gli effetti del gelo semmai si potranno verificare fra qualche settimana, mentre sono abbastanza definiti i danni alle colture orticole in pieno campo, quelle di stagione, e alle strutture, serre in particolare e stalle, in qualche caso ci sono anche dei crolli con morte di animali. Qui abbiamo fatto questa mappatura pensando insomma anche di ridimensionare un po' alcuni dati che sono stati dati in questi giorni, che probabilmente sono un po' alti. Veniamo alla stima dei danni invece regione per regione. Dicevamo il Lazio è in testa. Sì, Lazio è una delle regioni in testa, stiamo intorno ai 35 milioni di danni, sono soprattutto legati ai danni alle colture ortive in primo luogo, poi colture in serra e zootecnia. Più o meno situazione simile per quanto riguarda un'altra delle regioni fortemente colpite, che sono le Marche e l'Abruzzo. La Liguria e il Piemonte, più colpite la Liguria per quanto riguarda le colture sottoserra, e per quanto riguarda il Piemonte invece la zootecnia anche da carne, soprattutto orticole in Sardegna, anche lì una trentina di milioni di danni, e sugli animali, soprattutto vigni, per cui pecore che erano lo stato brado evidentemente. Danni alle serre invece in sud Italia, Calabria e Sicilia. A questo punto come intervenire? Perché insomma gli agricoltori sono in seria difficoltà. Sono in difficoltà veramente enorme, anche perché poi in questi giorni si sta assistendo anche ad un calo dei consumi che si aggiunge già al problema dei trasporti di qualche settimana fa e al problema del freddo di questi giorni. Ci sono diverse opzioni, tra le altre noi vorremmo prendere in considerazione anche quella più impegnativa di un intervento europeo grazie al Fondo di Solidarietà Europeo. E ringraziamo il presidente di Coldiretti, Sergio Marini. L'abbiamo sentito poco fa, la Marcegaglia questa mattina era all'inaugurazione della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, un'occasione per fare il punto sul settore con un po' di dati. Il turismo italiano è salvato dagli stranieri. Secondo i dati Istat, nel 2011 le presenze italiane, sia in alberghi che in altre strutture, è diminuita del 4,4% rispetto all'anno precedente. La situazione migliora decisamente se si guarda le presenze degli stranieri nel nostro paese. Nel 2011 sono aumentate quasi del 4%. E più stranieri vuol dire anche più soldi. Secondo la Banca d'Italia, fra gennaio e novembre del 2011, la spesa degli stranieri in Italia è aumentata del 6%. Quella degli italiani che vanno all'estero è cresciuta dell'1,6. Ma da dove arrivano i turisti che visitano l'Italia? Innanzitutto dalla Germania, seguono Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Svizzera, Austria e Spagna. Se si guarda le percentuali di crescita, c'è un vero e proprio boom degli arrivi cinesi. In termini assoluti si tratta di numeri ancora limitati, ma in percentuale sono cresciuti del 30%. Crescono anche del 23% gli arrivi da Brasile e Australia. È una chance per il turismo di casa nostra, potrebbe anche arrivare dall'Expo 2015. Nel 2010 l'Expo di Shanghai ha attirato 73 milioni di visitatori, di cui 4 milioni e mezzo stranieri. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E Radio 24 è la radio ufficiale della BIT. Molte le nostre trasmissioni che oggi vanno in onda in questi giorni, vanno in onda dalla Fiera di Milano RO. Per sapere quali potete andare sul nostro sito www.radio24.it. L'allarme della Corte dei Conti, l'evasione dell'IVA supera il 36% fra le più alte d'Europa e corruzione e malaffare sono ancora molto forti in Italia. Lavoro, il sindacato sa che al di là dell'ascolto, dice il ministro Fornero, c'è la ferma decisione del governo di fare una riforma vera. Marcegaglia, gli incontri sono partiti con il piede giusto. E nel pomeriggio si terranno a Palazzo Borromeo le celebrazioni annuali per l'anniversario dei patti lateranensi, all'indomani dell'annuncio del Premier sulle nuove regole per il pagamento dell'ICI da parte della Chiesa. Saranno tassati gli immobili non destinati esclusivamente al culto, questo in estrema sintesi. L'emendamento sull'ICI proposto dal Premier Monti costituisce un progresso sensibile, ha commentato il portavoce del commissario europeo alla concorrenza Almunia. Al microfono di Katia Caramelli, il portavoce della conferenza episcopale italiana, Monsignor Domenico Pompili. Prima di una conoscenza puntuale della formulazione del testo riesce difficile esprimere un giudizio circostanziato. Quel che è certo è che con molta attenzione e con senso di responsabilità, visto anche il momento che attraversa il nostro paese, la Chiesa italiana si appresta appunto a verificare queste indicazioni. Come più volte ha ripetuto il cardinale Angelo Bagnasco, da parte della Chiesa non c'è alcuna intenzione di venir meno al senso di corresponsabilità e di solidarietà che il Paese esige. Un augurio permane proprio in ragione di questo, e cioè il desiderio che tutto il vasto mondo del no profit sia in ogni caso riconosciuto proprio per questa sua funzione così singolare. Mi conferma che non ci sono stati contatti prima dell'annuncio del Premier? No, io la cosa l'ho saputa ieri sera, personalmente avevo dato a voi giornalisti indicazione che prima dell'appuntamento di oggi non ci sarebbero state le novità, perché così a me era parso di capire, e viceversa chi ha deciso, perché si tratta di un atto unilaterale del governo, ha pensato diversamente. La Guardia di Finanza di Firenze ha messo le mani su un'azienda italiana che aveva in Italia solo la facciata, una struttura complessa di tante società attraverso la quale tutti i profitti finivano ad Hong Kong e alle isole Vergini britanniche. 686 milioni di euro di redditi non dichiarati, evase imposte per 233 milioni di euro, denunciate tre persone. Il generale Gaetano Mastropierro al microfono di Valeria De Rosa. È sicuramente un'operazione molto importante, che ha la sua particolarità nel fatto che i paradisi fiscali, oltre ad avere bassi regimi impositivi, hanno forme di collaborazione pressoché inesistenti, quindi per noi sarebbe stato estremamente difficile attivare collaborazioni o richieste di informazioni con l'Estremo Oriente. Noi dall'Italia, senza muoverci, siamo riusciti a ricostruire non solo i flussi commerciali ma anche il quadro societario con sufficiente certezza, tanto che per alcune annualità già sono state notificate dall'Agenzia delle Entrate una serie di avvisi di accertamento. Speriamo quindi di recuperare. Non lo so se si riuscirà a recuperare tutto, però ovviamente l'Agenzia ha già notificato avvisi di accertamento per alcune annualità. Ed ora il nostro appuntamento quotidiano sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Anche la sponsorizzazione dei rally automobilistici viene utilizzata per gonfiare i costi e abbattere l'imponibile. Esattamente quanto accade per le sponsorizzazioni di calcio e pallavolo, di cui ci siamo già occupati. Il giro per quanto riguarda i rally è notevole. Lo conferma pochi giorni fa la scoperta di un'organizzazione ramificata su tutto il territorio nazionale, che attraverso due società palermitane costruiva costi per migliaia di euro, cedendo spazi pubblicitari inesistenti su auto da corsa o cartelloni pubblicitari lungo i percorsi delle gare automobilistiche. Un giro di fatture per 30 milioni di euro. L'intervento della Guardia di Finanza, chiamato Operazione Testa Coda, è scattato dopo un controllo a un distributore di carburante in provincia di Caltanissetta. I sospetti sono nati da una fattura di 50.000 euro per la sponsorizzazione di un'auto non giustificata dal volume dell'attività. Ora sono 10 le regioni coinvolte nell'utilizzo delle false fatture. Fra queste, Sicilia, Lazio, Veneto e Lombardia sono quelle che spiccano per maggior numero di sponsorizzazioni. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Processo Mediatrade. La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex premier Silvio Berlusconi e altre 11 persone per presunte irregolarità nella compravendita dei diritti televisivi. Rischiano il processo, fra gli altri, anche il figlio di Berlusconi, Pier Silvio, e il produttore Frank Agrama. E stamattina le parole dell'ex presidente del Consiglio su Canale 5. Io spero che gli italiani abbiano chiaro il gesto che è stato compiuto da me e dal mio governo, ed è stato un gesto unico nella storia della Repubblica Italiana e non solo. Noi, avendo la maggioranza in Parlamento, sia alla Camera che al Senato, abbiamo ritenuto di farci da parte per consentire di mettere in campo un governo di tecnici le cui decisioni, i cui provvedimenti potessero trovare in Parlamento il voto sia della maggioranza che dell'opposizione, e questo non soltanto per poter approvare con tempestività le leggi di emergenza che ci venivano chieste dall'Europa e che erano necessarie per rilanciare la nostra economia, ma soprattutto per poter approvare in Parlamento quelle riforme dell'architettura istituzionale del Paese senza le quali non si può avere un Paese veramente governabile, quindi non lo si può modernizzare. Ed ora cambiamo decisamente argomento perché ci trasferiamo a Sanremo con la nostra inviata Marta Cagnola. Marta. Sì, Piera, io vi avevo promesso che vi avrei parlato delle reazioni della RAI nella conferenza stampa di mezzogiorno, ma la conferenza stampa di mezzogiorno non è ancora iniziata alle 13.23, era stata spostata alle 13, poi in ritardo, in realtà nessun mistero. Semplicemente questa mattina ci sono state le prove dei duetti con gli ospiti stranieri che ci saranno questa sera. Già sapevamo che sarebbero state dei duetti su canzoni italiane importanti nel mondo, ma la sorpresa è che saranno dei veri e propri show, quindi canteranno anche canzoni del loro repertorio, insomma canzoni note a vario titolo. Marta, ieri sera non è andata tanto bene, ascolti in calo? Tra calo fisiologico, effetto Celentano e poi dobbiamo parlare proprio della concorrenza del calcio che è stata particolarmente forte, peraltro con una partita andata molto bene per il Milan, scendono gli ascolti della seconda serata, era prevedibile 11.55.37,29% di share, l'anno scorso era il 39,28%. Per quanto riguarda la media ponderata, cioè prima e seconda parte insieme, non arriviamo più a 10 milioni ma a 9 milioni e 200 mila telespettatori, l'anno scorso i 10 erano stati superati. Dicevamo appunto per quanto riguarda la partita che invece ha avuto 4 milioni di ascolto, quindi insomma l'unica controprogrammazione che è arrivata in questi giorni tutto era stato cancellato, è riuscita insomma ad erodere pesantemente gli ascolti di questa seconda serata del festival. Marta, sono anche gli inizi della conferenza, i primi ecco commenti. Marta, un'ultima cosa, sono allora anche saltati degli spot e la RAI potrebbe essere tenuta a fare dei risarcimenti insomma piuttosto gravosi, anche di questo si parla? Sì, se ne parla, nessuno ha ancora voluto dare delle cifre, potrebbe addirittura arrivare a una cifra veramente molto grossa, si parla fino a 500.000 euro perché è saltato un blocco, sapevamo appunto che ci sarebbero stati degli aggiustamenti per quanto riguarda insomma la prima serata con quell'intervento Fiume di Celentano, ma probabilmente i calcoli non sono stati esatti, adeguati, quindi uno spazio è saltato e la cifra potrebbe dover pagare una penale molto molto alta. E sono guai per la RAI e quindi anche per tutti noi. Grazie a Marta Cagnola da Sanremo. E questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Paolo Corleoni. Prossimo GR24 alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.